24, la storia. Emanuele Macaluso, lei ha detto che i fenomeni di corruzione che si verificano oggi sono diversi dall'epoca di Tangentopoli. Perché? Allora furono investiti i partiti essenzialmente, ora sono investite persone, capi struttura, la grande burocrazia, tutto un mondo che è attorno alla politica, ma non sono al centro i partiti. Allora al centro furono i partiti di Tangentopoli. Oggi al centro c'è tutto sistemi di poteri, lobby, gruppi, persone, grandi manager, eccetera. Questa è la differenza che io trovo. Bentornati su Mix 24, oggi con Marina Milone prosegue la seconda puntata della storia di Mani Pulite, l'inchiesta che tra il 92 e il 93 sembrava aver cambiato per sempre il nostro paese. Un terremoto giudiziario che in due anni porta all'arresto dei principali leader dei partiti storici italiani, l'ADC e il PSI. È il crollo della cosiddetta Prima Repubblica Italiana, che avviene quasi contemporaneamente alla fine della Guerra Fredda nel mondo e al crollo del sistema comunista in Unione Sovietica. Il minor coinvolgimento nell'inchiesta di Mani Pulite delle forze di opposizione, ovvero del PDS e PC, hanno fatto spesso gridare al complotto e ha reso Tangentopoli uno dei periodi più controversi della nostra storia. Ma in che misura il PDS venne coinvolto nell'inchiesta di Mani Pulite? Sergio Cusani, il principale collaboratore dell'imprenditore Raul Gardini, al processo dichiara di aver versato per conto di Gardini miliardi di lire nelle casse dei principali partiti di maggioranza e di opposizione. Secondo Leo Porcari, la guardia del corpo di Gardini, il finanziere avrebbe incontrato Massimo D'Alema nella sede del Partito Comunista, in via delle Botteghe Oscure a Roma. Queste le sue risposte al processo Mani Pulite. Ricorda, se per caso in una occasione o in più occasioni lei ha avuto modo di accompagnare Gardini dall'onorevole D'Alema o Chetto o entrambi. Ci ha ricevuto, mi pare, se non vado errato, l'onorevole D'Alema. Siamo saliti, non ricordo se al secondo piano, sono entrati dentro una porta che c'era di là, non lo so, posso immaginare che ci fosse Occhetto, ma non ne sono sicuro, poteva essere anche l'ufficio di D'Alema. Grazie. Occhetto personalmente non l'ho visto. D'Alema, grazie. D'Alema l'ha visto riceverlo. Sì, ha ricevuto Gardini e l'ha accompagnato. Così la posizione divergente di Massimo D'Alema e di Antonio Di Pietro sulla vicenda. Io scrissi al presidente del tribunale dicendo che quella testimonianza era falsa, era stata costruita, non so da chi, non faccio dietrologie, ma era completamente falsa, che io ero in grado di dimostrare la falsità di quella testimonianza, anche perché all'epoca ero direttore dell'unità, non lavoravo a Botteghe Oscure e in quel determinato giorno mi trovavo a Mosca. E sicuramente quel giorno Gardini a Botteghe Oscure ci è andato, ma a quale piano e dove si è fermato, lì non potevamo arrivarci. Io più volte ho chiesto al presidente del tribunale, voglio sentire D'Alema, voglio sentire Occhetto, perché voglio sapere. E il presidente del tribunale non ha permesso che questa audizione avvenisse, non lo ha permesso semplicemente perché diceva, sono ininfluenti, sa perché? Perché nel frattempo amnistiati. Il presidente del tribunale disse, ma la questione non è attinente al processo, quindi io non potei essere sentito. E rispose, sarà la procura ad approfondire, perché indubbiamente quella testimonianza era una testimonianza che alludeva ad un'ipotesi di reato, c'era una notizia criminis, non ci fu nessuna inchiesta. Che evidentemente qualcuno era ben consapevole della falsità di quella operazione, falsa, ripeto, un falso clamoroso, avrei potuto dimostrare molto facilmente, e tutto fu lasciato cadere. Di Pietro dice non siamo potuti andare avanti per l'amnistia. Ma neanche per idea, c'era un reato di corruzione, come è stato processato Cusani, poteva essere processato eventualmente chi di noi fosse responsabile. Le ripeto, era una testimonianza completamente falsa, è un episodio che mi ha sempre lasciato, come dire, un po' turbato. 20 anni dopo, il mancato coinvolgimento dei leader post-comunisti in Tangentopoli continua a far discutere.

a stento compariva in una notizia breve, diciamo, e quindi con uno squilibrio impressionante dell'informazione. Quando però appaiono le immagini del democristiano Enzo Carra, portavoce di Forlani, condotto in manette all'udienza preliminare, da più parti si grida la gogna mediatica. Così Enzo Carra risponde, intervistato a Mixer nel marzo del 1993. Dottor Carra, che effetto le ha fatto diventare improvvisamente il simbolo della DC in manette? Beh, di sgomento, perché mi pareva e mi pare una cosa insensata, e comunque sproporzionata rispetto e alla accusa che mi veniva mossa di false dichiarazioni al pubblico ministero e rispetto poi alla mia persona, che non era certamente quella di uno dei leader storici della Democrazia Cristiana. Quando arrivò con le manette, nacque il caso, perché qualcuno fece rilevare questa anomalia e fece togliere la manetta a Carra, e fu il pubblico ministero Di Pietro. Senta, il settimanale inglese L'Economist ha scritto: l'Italia sta vivendo un cambiamento radicale, lo stanno portando avanti i giudici dei tribunali, è un fenomeno straordinario, forse il primo nella storia, una specie di rivoluzione esclusivamente legale con il codice al posto della ghigliottina. Lei la sottoscrive questa analisi? Sì, la sottoscrivo, ma vuol dire questo che un rinnovamento così è di grandissimo pericolo per tutti, credo anche per i giudici. Perché per i giudici? Anche per i giudici, perché poi daremo fra qualche anno, fra qualche mese a loro la responsabilità di un rinnovamento totale di un paese che vuol rinnovarsi, ma non soltanto con la ghigliottina né tantomeno con la gogna. Al di là dell'esito giudiziario della sua vicenda, quella di Enzo Carra in manette resta un'immagine simbolo, perché tra azione giudiziaria e sistema dell'informazione, in quelle settimane si è creato un cortocircuito perverso, duro a morire. Anche questa è una pagina della storia di Tangentopoli. Ascoltiamo i commenti del magistrato Marcello Maddalena e poi ancora Massimo D'Alema. L'avviso di garanzia è stato trasmesso all'opinione pubblica come giudizio di colpevolezza, e questo ha dato luogo a un fenomeno che è quello della gogna mediatica. Anche perché tra alcune procure e i giornali si stabilì un rapporto assolutamente improprio. E la gogna mediatica, a mio personale avviso, è spesso una pena in concreto per la persona che la subisce, superiore alla stessa condanna in sede penale. Giornali e magistratura erano due aspetti di una potente offensiva contro i partiti, insomma, non a caso poi dietro i giornali ci sono gruppi economici, finanziari, non è che in Italia ci abbiamo i giornali liberi, diciamo. I giornali rappresentano una voce forte di una parte del paese che in quel momento voleva sgombrare il campo di un ceto politico considerato corrotto, inefficace, e quindi partì un'operazione che travolse la politica. Un'operazione contro la politica. Quello di D'Alema è un giudizio netto, chiaro, senza mezze misure. Ma non c'è in quei mesi soltanto la gogna mediatica, c'è anche un uso frequente da parte dei giudici della custodia cautelare, in carcere che secondo qualcuno è addirittura un abuso. Negli anni di Mani Pulite, il pool di Milano è come un treno in corsa che giorno dopo giorno macina arresti e avvisi di reato. Ma in questa corsa non mancano le tragedie. Ascoltiamo l'avvocato Gaetano Pecorella e poi Giuseppe Adamoli, ex consigliere regionale della DC. Per molti fu un trauma terribile quello di temere che all'alba arrivassero in pieno assetto di guerra poliziotti o carabinieri ad arrestarli. Le foto segnaletiche, per esempio, nudo come un verme, sono una cosa che rimangono nella testa in maniera assolutamente indelebile. E quando mi si chiese, ma lei non chiede gli arresti domiciliari, io vi devo consegnare la mia salma, gli disse, vi devo far sprofondare sotto il peso della mia salma, e divenne io un problema per loro. Naturalmente feci 17 giorni di digiuno nel silenzio, e dopo 17 giorni mi pregarono di andare a casa e di tornare alle mie attività. Avete ascoltato Paolo Cirino Pomicino, rappresentante della Democrazia Cristiana. Secondo i legali di alcuni imputati, la detenzione preventiva sarebbe stata in molti casi immotivata e finalizzata a estorcere ammissioni e confessioni. Lei veniva arrestato, diceva delle sciocchezze per uscire, ammetteva di tutto e di più e il pubblico ministero lo faceva subito uscire e procedeva verso il patteggiamento. Noi non l'abbiamo mai messo in galera per farli parlare. Quando sono andati in galera è perché nei loro confronti c'erano gravi indizi di colpevolezza in ordine a fatti già accertati e grave pericolo o di inquinamento probatorio o di fuga, ma soprattutto di inquinamento probatorio. La carcerazione fu usata per ottenere delle confessioni, in qualche caso è vero, anziché, come dice la legge, per prevenire la fuga o l'inquinamento delle prove. C'è stata una serie di confessioni e di patteggiamenti sicuramente legati alla paura del carcere e poi ci sono stati collegati al carcere, alla paura del carcere, come sappiamo tutti, anche alcuni suicidi particolarmente dolorosi. Gabriele Cagliari è morto questa mattina. La conferma è arrivata poco fa dalla procura. L'ex presidente dell'ENI è stato trovato nella doccia del terzo braccio del carcere con un sacchetto di plastica in testa. La criminalizzazione di comportamenti che sono stati di tutti, degli stessi magistrati, anche a Milano, ha messo fuori gioco soltanto alcuni di noi, abbandonandoci alla gogna e al rancore dell'opinione pubblica. Avete ascoltato la lettera di Gabriele Cagliari alla famiglia. Il manager indagato prima per Mani Pulite e poi nell'ambito di altre inchieste della procura è rimasto in carcere per 133 giorni. Dopo aver sperato invano in un provvedimento di scarcerazione, ha deciso di farla finita. La convinzione che mi sono fatto è che i magistrati considerano il carcere nient'altro che uno strumento di lavoro, di tortura psicologica. Il carcere non è altro che un serraglio per animali senza testa né anima. Non è dunque possibile accettare il loro giudizio, qualunque esso sia. Di Pietro ha detto: è una sconfitta enorme, non si fa così, alludendo all'atteggiamento di De Pasquale, che dapprima aveva promesso a Cagliari la scarcerazione e poi aveva cambiato idea. Sono convinto che Cagliari si è sentito abbandonato nel momento in cui pensava di poter uscire, perché così gli aveva detto il pubblico ministero, usò delle parole, il pubblico ministero allora dice: ma no, adesso ti devo mettere fuori, poi invece andò via, non lo mise in fuori, quindi ci fu un errore di valutazione di quel collega che in quel momento non decise sulla sua scarcerazione, e in questo senso era e resta una sconfitta, e mi voglio assumere la responsabilità di questa parte di sconfitta durante l'inchiesta Mani Pulite. Una sconfitta per la magistratura e l'amaro bilancio, nelle parole di Antonio Di Pietro, di uno degli episodi più controversi di Tangentopoli. Gli ispettori inviati a Milano dal Ministero della Giustizia tuttavia hanno concluso, cito testualmente, che appare assai difficile collegare il suicidio di Gabriele Cagliari ai comportamenti del dottor De Pasquale. Anche perché, secondo gli ispettori, nelle sue lettere ai familiari Gabriele Cagliari aveva indicato già da tempo dei propositi suicidi. Fin qui gli ispettori. Ma se i suicidi sono la pagina più tragica di quella stagione, restano comunque, oggi come allora, aperte le polemiche e gli interrogativi sull'uso della carcerazione preventiva. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24 con la storia di Tangentopoli. Dunque, lo abbiamo detto già in quegli anni dell'inchiesta di Mani Pulite, l'uso della carcerazione preventiva da parte dei giudici fa discutere. Ascoltiamo Paolo Cirino Pomicino e l'avvocato Gaetano Pecorella. Ma qualcuno ha chiesto scusa alle centinaia di persone che sono state imprigionate e poi risultate innocenti? Le faccio solo qualche nome più autorevole. Clelio D'Arida, oltre 70 anni, è stato 2 mesi in carcere e poi risultato innocente. Franco Nobili, ha 70 anni anche lui, 2 mesi in carcere e poi risultato innocente.

affidò al governo il compito allora di trovarla questa soluzione politica, ma questo accadde a febbraio 93. I magistrati Marcello Maddalena e Gerardo Colombo commentano così il controverso decreto Conso. In quel contesto in cui stava emergendo questa molteplicità di casi di corruzione che venivano portati alla luce, eliminare quella norma che era stata in concreto il grimaldello per riuscire a scoprire quegli episodi, sembrava voler non tanto colpire la norma più o meno discutibile in sé, quanto colpire quello che era stata la possibilità di sviluppo ulteriore che si era avuta. Sarebbe stata una specie di amnistia più che essere una soluzione politica. Abolire un reato e basta vuol dire continuare a mantenere lo stato delle cose così come erano precedentemente. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Il dibattito su Tangentopoli è ancora aperto. L'opinione pubblica ancora oggi si divide tra colpevolisti e innocentisti. Per la magistratura il decreto Conso, che depenalizza il finanziamento illecito ai partiti, lo avete sentito, sarebbe una vera e propria amnistia. Un colpo di spugna un tentativo di rinnovamento del sistema. Giuliano Amato ricorda un incontro col procuratore capo di Milano, Francesco Saverio Borrelli. Io ricordo che pochi giorni dopo incontrai il dottor Borrelli, con cui ho sempre intrattenuto un eccellente rapporto, devo dire la verità, e di cui ho sempre avuto stima, alla Università Bocconi, dove io ero andato ad aprire un master sulla pubblica amministrazione organizzato da Mario Monti, che venne ad accogliermi. E gli dissi: dottor Borrelli, ma perché lei ha detto questa cosa? Non è vero che è il blocco totale delle indagini, perché lei sa, perché è giurista come me, che se c'è il solo sospetto della corruzione o della concussione, anche l'illecito finanziamento viene attratto dalla competenza del giudice, e quindi la depenalizzazione riguarda solo quell'illecito finanziamento che non è connesso a corruzione e concussione. Lui non poté negare questo, perché tra giuristi si gioca con le carte sul tavolo. Mi disse: però molto spesso le nostre indagini possono partire solo dall'illecito finanziamento, e quello è il filo che ci porta dentro l'indagine. Può darsi che questo fosse vero. È anche vero, e lo sappiamo tutti, che è il magistrato che decide quale reato sta perseguendo, e quindi è il magistrato che al primo sospetto può dire: qui ci vedo la corruzione, e a quel punto è sua la competenza. Il braccio di ferro sul decreto Conso tra politica da una parte, magistratura, media, opinione pubblica dall'altra, è il prologo del tracollo del sistema. La Prima Repubblica ha i giorni contati. Il 18 aprile del 93, con un referendum, gli italiani cancellano il finanziamento pubblico ai partiti e contemporaneamente scelgono il sistema elettorale maggioritario. Un anno dopo, nel marzo del 94, le elezioni segnano il crollo dei partiti storici e la definitiva affermazione dei nuovi protagonisti, spinti dal vento dell'antipolitica. Dopo l'introduzione del nuovo sistema elettorale maggioritario, il quadro politico subisce una radicale trasformazione. In pochi mesi, a cavallo tra il 1993 e il 94, spariscono PSI e DC, il più antico e il più importante dei partiti italiani. La Lega conquista la poltrona di sindaco di Milano e un nuovo soggetto irrompe sulla scena. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. I numeri del ciclone Tangentopoli: 25.400 avvisi di garanzia, 45.525 arresti, 3.200 richieste di rinvio a giudizio, 1.254 condanne, 910 assoluzioni. Emanuele Macaluso, insomma, Tangentopoli è una rivoluzione fallita? Ma guardi, i partiti erano già in crisi nel 92, perché dopo l'89 il sistema politico italiano era in crisi, la corruzione c'era, non c'è dubbio, e quindi la politica era già debilitata e incapace di affrontare il rinnovamento dei partiti e colpire la corruzione. Quindi è stato demandato tutto alla magistratura e molti pensavano che la magistratura avrebbe fatto una rivoluzione civile nel nostro paese. Non è stato così. Ma hanno fallito i giudici? Ma i giudici dovevano fare delle sentenze rispetto ai reati. Invece hanno cercato di assolvere anche una funzione di rinnovamento. Uno di loro disse che bisognava rivoltare l'Italia come un calzino. E in questo senso è fallita perché dopo la grande rivoluzione è arrivato Berlusconi con tutto quello che dove hanno sbagliato? Hanno sbagliato a non distinguere appunto i problemi che si ponevano di colpire chi aveva un reato di corruzione con l'idea appunto invece di rinnovare il sistema politico. E qui c'è la responsabilità però della politica, perché è stata la debolezza della politica, l'incapacità della politica, io qui faccio una critica soprattutto alla sinistra, di interpretare il rinnovamento della politica e non delegarla ai giudici. Ma secondo lei ci fu un favoritismo delle procure per i partiti di sinistra? No, non ci fu, io non credo che ci fu, perché furono arrestati gli amministratori del PC, furono arrestati e non si trovarono grandi cose. Bene, la differenza era che il PC era un'altra cosa, perché aveva una sua disciplina interna, un modo non c'era il personalismo, non c'erano le correnti, non c'erano i personaggi che si autofinanziavano come era nella Democrazia Cristiana, come poi purtroppo fu anche nel Partito Socialista. Quindi il partito era una cosa ancora reale, diciamo così, e non c'era il finanziamento, c'era ancora l'autofinanziamento. Il Partito Comunista è stato il partito che ha continuato col tesseramento, con le feste dell'unità, con l'autofinanziamento. Certo, questo non significa che non ci furono anche alcune cose che riguardavano i contributi di alcuni imprenditori, ma non era legato a questo sistema. Emanuele Macaluso, ma lei che è un maestro e un veterano della politica, oggi come si può combattere la corruzione? Io non credo mai alle leggi. La legge, sembra che la legge sulla corruzione sia l'atto definitivo, no? Il problema è la politica. Guardi, e quindi il fatto che Di Pietro ha fatto un partito suo ed è annegato nella crisi morale, si è disfatto nella crisi morale. E quindi? Quindi che cosa significa? Che il problema è della politica, e cioè che debbono essere i partiti, debbono essere le forze politiche ad avere un costume, fare una battaglia politica, culturale e civile, e avere dentro i partiti delle regole che colpiscano rapidamente i personalismi e finanziamenti impropri rispetto a quello che deve essere un finanziamento aperto e trasparente. E secondo lei lo stanno facendo? Non mi pare che lo stiano facendo, non mi pare che ci sia una forte tensione politica dentro i partiti, c'è tutto delegato ancora una volta alla magistratura e alle leggi, come se dovesse essere appunto un sistema giudiziario a verificare, a controllare tutto, mentre nei partiti quello che avviene non si capisce che cosa c'è. Quindi siamo ancora lontani dal ritorno del primato della politica? Io penso proprio di sì, io penso che il primato della politica si afferma proprio anche sulla questione morale, cioè che essere la politica ad avere una sua moralità, e deve essere una moralità non dichiarata e demagogica, deve essere una moralità nel modo di organizzare il partito deve essere organizzato sulla base del volontariato, deve essere organizzato sulla base della battaglia delle idee, delle battaglie politiche, delle battaglie culturali, non della corsa ai posti di governo, di sottogoverno e delle società collegate al governo, al sottogoverno. Ecco, io credo che questa tensione forte che ci fu in Italia per un certo e anche importante periodo della sua storia non è tornato e deve tornare. Io penso e spero che i giovani siano in grado di fare tornare questo clima di sobrietà e di rigore, ma nella battaglia delle idee. Grazie.